c'è qualcuno sul canale 10? Hola. Marco? Marco, sei tu? Chi c'è sul 10? Addirittura nel canale 10? Tutti voi sul 10? Vediamo un po' sul 23. CQ canale 10? CQ canile 10. Il canile è disattivo. Chi è quella portantina? Avanti. CQ 10, c'è qualcuno in assolto? Ci sei? Vai, ubriacone tragico. Aspetta che faccio star zitta questa ventola che è una cosa... Ci devo mettere un cacciavite sulla... nella ventola per farla rallentare. Ma se la sta... E ti fa esasperare. Allora, Natalino... Beh, Marcolino, che fai? Io ne ho uno da 30 ampere di alimentatore, di quelli switching, però è senza strumenti, e senza niente, c'è solo una ventola e boom. Eia. Eia, sì, questo è lo stesso switching ed è... ed è da 30 ampere teorici, no, però c'è uno strumento unico, puoi selezionare o volto o ampere, quindi quando faccio star zitta la ventola come adesso non senti nulla, quasi nulla, senti solo lo spostamento dell'aria. E ho capito, e al limite busca un'altra ventola, magari è murinata, scusami. Sai cos'è? Ce l'ho vari anni questo alimentatore, capito la tariffa? Vari anni e quindi... Gaba gaba, okay. Cazzo sul 23 roba di risate, quando entro io cazzo ne facciamo di tutti i colori. Eh beh, gioventù, era ora che qualcuno si svegliasse. Mille mia Giulio, ciao Giulio, ben entrato, buonasera. Ciao Natalia, dalle 4 sono qua in attesa, guardando la televisione che mi sono stancato in tutte le maniere e in tutti i sapori. Marco, se guardi il computer c'è qualcosa che ti fa ridere, non il computer, il WhatsApp. Sì, ho visto arrivare un messaggio ma non l'ho ancora aperto, perché ero andato a comprare il mangime dei gatti da Sisa. Cosa ti volevo dire? Io prima ho fischiato, però stavo passando in fretta dal 23 al 10, al 5, al 40 c'era un rumore strano. Ho fischiato prima però. Solo che sono, c'è fischio, manco un secondo, giro canale, eccetera. Quindi se qualcuno l'ha chiamato non l'ho sentito. Ma io ho chiamato al 10 più volte e ho chiamato anche più volte al 20 sul 23. Tutti morti, tutti in letargo. Tutti nel sacello. Guarda WhatsApp, guarda che ti fai una risatina. Non fanno vedere a tua madre però. Poi certe volte si mette a ridere più lì che io di certe cose. Eia, eia. Adesso vado a vederlo, dai, devo lasciare però. Aspetta, ce l'ho qua, no, ce l'ho nell'altra camera, arrivo subito, riprendete voi due. Ok. E beh, Natali, allora, c'è cosa diventa tu, sai. No, io ce l'ho qua. Ne uno da 30 ampere di quelli cinesi, però non è collegato quello. Infatti se ne avevo bisogno glielo davo a Marco, non me ne sbatte niente. Ah, è ok. Dai, hai uno senza strumenti. Io ce l'ho gli strumenti, se non lo prendi, vabbè, se lo devi dare a Marco, dalla marca, se, se ne ha bisogno, no, se ne ha necessità di avere un alimentato, daglielo a lui e basta. Ma se non lo devi dare a Marco e te lo devi buttare, tanto male, me lo vendi e poi ci penso io, perché io ho gli strumenti, ho l'avvento, ho tutto. Ho capito. Ah, no, è di quelli, è nuovo, mi ho comprato nuovo. Infatti all'inizio prima di comprarmi quello, avevo attaccato quell'altro. Ok, ma funziona anche se mancano gli strumenti, funziona. È nuovo, ti sto dicendo. E allora come mai mancano gli strumenti? Perché è di quelli cinesi, senza strumenti, è diverso da quelli che usiamo noi, capito? È switching però è senza strumenti, tipo un lineare rimane. Ho capito, pensavo che gli strumenti erano stati tolti, ho capito, sì, vabbè, allora va bene, non ho... dalla Marco se vi serve. Eccomi, ma chi è quel finocchio che parla? Non so. Ah, non lo so io. Io ho pensato, ma sarà Marco. Siccome a Marco non lo conosco di persona, sarà Marco pensato. Gesù, Gesù. Oh, vanno avanti. Mamma mia. Almeno ha coperto il fagiolino. Proprio a minimi termini l'ha coperto, la roba da matti, ma cos'è la Gay Pride, boh? Che ne so, me l'hanno mandato e io l'ho mandato a te. Così fa Natalino, mi, adesso glielo mando. Mandalo a Natalino, così si fa una relazione anche lui. Natalino, fallo vedere la signora Concetta però. No, già non c'è. È andata da una signora qua vicino, mi ha fatto 90 anni oggi. Ah, ok. Vabbè, dai. Ui. Me l'hanno mandato un altro, ma li ho già cancellati. Ui, facciamo perdere tutte queste cose. Ma chissà da dove ne ritorgono tutte queste cose pure, questa gente. Boh. E magari li trovano su internet, capito? Molto probabilmente li trovano su internet e allora fanno fare il giro su WhatsApp. Digliela a Marco le risate che ci facciamo sul 23 quando entro io. Ma io vado lo stesso sul 23, ma oggi non c'era nessuno, per cui quando non c'è nessuno sul 10 vado sul 23. Perché mi devo fermare qua? Se non c'è nessuno, voglio con chi parlo, con un muro. Se là c'è qualcuno, interessante che non ci sia l'infame, poi per il resto va bene per me. E anche io sono passato lì, ho visto che non c'era nessuno e sono tornato qua. Quando è acceso, capito? E infatti io vado a salutare Gio Maria, Bacchisio, quando capito. E infatti li ho chiamati, io prima ho fatto 3-4 volte la chiamata qua sul 10, non c'era nessuno, poi sono passato sul 23, ho chiamato a Bacchisio e a Malino, ma non ha risposto nessuno, per cui. E allora sono tornato qua. Allora, come entro subito mi fa il menù coso, Graziano. Io ho capito, vabbè, c'eri ieri sera, c'eri anche tu sul 23. Ehi. Io ero all'ascolto qua, che stavo facendo delle cosettine qui a casa, mi stavo giocando un po' che parola. Ehi, stamattina sono andato lì a fare quelle visite. Sono andato, senti, vado e ho i documenti. Sì, vabbè, così. Sono cose, ormai è diventata una prassi quella è diventata. Ogni tanto bisogna fare tagliando. Non è tagliando, è che è fastidioso, perché io mi dovevano chiamare a me a giugno, perché la verità sono andato a giugno. Sono andato 2 anni fa, però ti danno il tempo di farti queste visite qua, perché loro vogliono i documenti recenti, no? Sono andato 2 anni fa e adesso mi hanno tornato a chiamare, però a febbraio. Meno male che mi ha messo in mezzo quella segretaria, e così le ho fatte tutte e due. Infatti anche il dottore che mi ha fatto l'ecografia lì ha detto, oh, quelli non sono medici, sono laureati in medicina però non ne capiscono nulla. A posto siamo, in belle mani allora siamo messi. E beh Marco, mandategli questo messaggio a Natalino. Io ho il telefono ancora nel giubbotto, dopo lo prendo e vedo la situazione. E lo starà mandando. Ma ci vuole tutto questo tempo. Ah vabbè, lui ha, forse lui ha un computer direttamente, non so, insomma, dai. Vabbè, già te lo manderà allora. Natalì, qua c'ho le doppie freccine, mi risulta che l'ha ricevuto, guarda bene. Io adesso ce l'ho nel giubbotto ancora, che oggi ho fatto le visite, aspetta ma. Eia, Giulio, l'ha visto mamma, si è sganasciata dalle risate, dice roba da matti, guarda che mamma non si scandalizza, mi, per questa roba, già è una donna moderna, però dice, e dov'è questo? E dopo, sarà qualche gay pride in America, perché mi sa di gay pride molto, in nessun altro posto farebbero cose del genere. Per carità, sì, mi pare di qualcosa del genere, sì. È così. E quello della scala con l'appalario te l'avevo mandato ieri, mi sembra. Oh, infatti ieri, boh, non me lo ricordo. Aspetta, scala con lampadario, aspetta che guardo. Allora, ho quello del pappagallo che balla a suon di musica. No, non ce l'ho questo del lampadario, no. Adesso ti arriva subito, aspetta che te lo mando, dai. Però curioso quello del pappagallo, bello, come balla, musica tarda. Sono animali divertenti. Natalino, ti è piaciuto? L'ho guardato, l'ho visto. Mi non ti masturbare, mi. Ehi, aspettiamo che arrivi. Aspetta che levo qua. Anzi no, non lo levo. C'è il wifi attivato nel caso. Vediamo un po'. In diretta ve lo faccio sentire l'arrivo. Vediamo un po'. Ancora no, dai. Io l'ho spedito, adesso ti arriva. Anche quello è curioso, mio Marco, guardalo bene, perché tu vedi, inizialmente vedi una fotografia, un uomo sulla scala senza la testa, però guardalo tutto, aprilo. È arrivato, eh? Un attimino che lo scarico, eh? 2,5 mega, un attimo che vado in zona favorevole. Ok, già arrivato comunque. Le freccine già colorate sono già arrivate, vuol dire che ce l'hai. Io ne approfitto per salutarvi, Fortunato, una buonasera. Ciao Fortunato, aspetta, già è un giorno senza sentirti. Buonasera anche a te, salutoni, Giulio da questa parte, in compagnia di Natalino e Marco che si è allontanato un attimo. Vai Natalì per Fortunato. Ciao Fortunato, ben sentito, buonasera. Ciao Natalino, buonasera, ciao Giulio e ciao Marco. Come ben sai Giulio, io tragitto breve qua dalle gallerie a Bretaneta, poi i motivi di trabacco devo mollare. Mi prendi giù? Ok, beh certo, ho fortunato, il lavoro è più importante del banchino, già lo credo. Ma comunque mi fa molto piacere sentirti sempre, di tanto in tanto, sei molto gentile veramente, perché entri a salutare, almeno così, e sappiamo che stiamo bene, grazie a Dio. Vai ancora fortunato. Gamba, confermo, anche se ne stiamo uscendo da questa influenza, giù, va bene, dai. Ascolta giù, e fai girare i miei saluti, perché so che Marco sta facendo una commissione. Dai, buon fine settimana a tutti. Ok, Fortunato, sarà fatto senz'altro. Ciao Fortunato, grazie ancora per essere entrato a salutare, un piacere sempre ascoltarti. Vai Natalino, per Fortunato che sta chiudendo, lui sta lavorando per cui deve attendere. Vai Natalino. Ciao Fortunato, buon tutto, alle prossime. Marco, ci sei? Io ce l'ho anche sul computer, ce l'ho WhatsApp. Adesso che ci penso, e l'ho aperto sul computer. Oh, addirittura. Marco, dopo devo salutare a Marco la parte di Fortunato appena che rientra. E sul computer anche la lettera. E come ho fatto per vederlo sul computer, Natale? E lo vedo sul computer, si collega al telefono. Praticamente devi avere il telefono acceso, no? E ti appare sul computer anche i contatti, tutto quanto ti appare. Si collega al telefono, ma cosa c'è? Qualche filo c'è per interfacciarlo? Cosa c'è? Non lo so, io non so come funziona. No, si chiama WhatsApp Web, è un programma che devi scaricare per il computer. E tu devi lasciare il telefono acceso, non lo devi collegare da nessuna parte, e appare tutto. WhatsApp Web, così hai detto? Eia, e siete nel computer. Dopo controllo, vedete. WhatsApp Web con la W, è scritto Web. Parla vicino, non ti ho sentito. Ho detto sì, si conferma. Ok, dopo controllo, adesso me lo scrivo perché non vorrei dimenticarmi la parola, va bene, WhatsApp Web, va bene. Marco, sei rientrato? Sì, sono rientrato, aspetta, vediamo se l'ho visto quel video. Guarda, da romperci le ossa mi cadendo così. Avanti il fischio. Ma no, non ti preoccupare che quello fischia sempre, quello un giorno l'ho mandato al diavolo perché lo faccio per fischiare ma non parla mai. Eia. Poi hai sentito qualcuno che ride. Che ride a quello che cade dalla scala. Mamma mia, se fossi caduto io mi sarei frantumato a fare quelle cose lì, mamma mia. Poveraccio, ho visto che la sei caduta che ha fatto. Ma è stato reattivo perché è saltato, dunque ha risolto un po' il problema del farsi male. Marco, lo sapevi che c'è per il computer WhatsApp? Certo. E io ce l'ho anche lì. Quante cose che fanno queste private, per carità, non è possibile. Anzi, ti dirò Natalino, una volta WhatsApp ce l'avevo. Ah no, sbagliato, Zello avevo messo sul fisso. Io il fisso non lo uso mai, ho il portatile. Alla fine sto usando sempre solo lo smartphone. Il portatile lo uso per scaricare serie TV, che ne so, film. Ho capito. Vabbè. No, io ogni tanto già lo uso, tanto ieri ho fatto un paio d'ore al computer. Stasera mi sono attaccato alla televisione e stavo guardando sul canale 52 e c'era un numero di pescatori con le varie barche e intanto stavano bisticciando perché uno era troppo vicino, dice deve stare a 400 metri di distanza, e stavano facendo la pesca del tonno a lenza, accetta, uno ne ha preso uno che pesava roba di 180 kg che gli fruttava intorno ai 4-5 mila dollari secondo il suo modo di conteggiare, a 9 euro al chilo mi sembra che ha detto, una cosa del genere. Scusate, stavo mandando anche a Claudio quello che balla, però guarda avanti. No, devo mandare quelle cose a Claudio che poi ti sgrida. Sto scherzando, ma tu immagini, prima devi chiedere, a te io te lo mando perché intanto so che già sei una persona che accetta, cioè, ma tu non puoi mandare una cosa così, supponi il caso che il telefono ce l'ha a casa e lo apre la moglie, ma dico io. No. Già si sganasce anche la moglie. Va bene. E io a te te lo mando, perché intanto so che lo apri tu e poi so che già stai allo scherzo, per cui no, non ci sono problemi, poi non ci sono bambini, non c'è niente, ma lì è, a casa di Claudio c'è anche la figlia e non sta bene, dai Marco. Nathalie. Oh ya, yeah. Già siamo qui. Fatto bene dai al cane con le col ballerino, fatto bene dai al cane. Ma ci deve essere qualcuno sul 23. Eh beh, sicuramente ci saranno. Vabbè, ma finché c'è ruota qua, rimaniamo qua a lui. Per cui. Non prendo il piano, io lo so perché prendo tutti. Mosca volare. Ehi, però parla sempre vicino al microfono, perché ti ho copiato solo a metà del passaggio. Quando sei lontano dalla bocca col microfono non si sente niente. Ho detto che con questo apparecchio prendo colpi e lo so per quello. Con l'altro non sentivo neanche volare la mosca. Prenditi quello mio, quello col frequenzimetro, quello che nasce omologato. Ma ci voglio un insulto. E basta, adesso domani mi tocca fare una commissione, scendere al ghetto, devo scendere. Eia, peraltro sul mercatino purtroppo se vuoi vendere devi vendere fuori, purtroppo ho messo sul mercatino due baracchini d'ultima generazione e quel veicolare di panda che poi è quattro panda in realtà, a vedere la situazione è tribula. Già lo so, non dirlo a me. Becco? Avanti Becco, buonasera Franco. Buonasera a tutti, dai. Chiamo Marco, Giulio, allora mi devo dire il nome, va bene, troppo spesso attenti, avanti giù. Ok, ciao Fra. Natalino, l'altro amico, stanno guardando un qualcosa che è stato distribuito tramite WhatsApp, capito? Allora si stanno rifacendo gli occhi. Oh, yeah. Natalino, aiuto, esci da pula. Io? Oh, saluto Franco, saluto Franco. Mamma mia, sta iniziando il programma mio preferito, cioè preferito, uno dei preferiti, dai, quello che non può vedere Giulio, ma tanto ricordati che Bonolis è lì, fa solo la scena, perché è uno spettacolo quello, ma certo di persona mica tratta le persone così come le tratta lì, dai, secondo me è anche preparata la cosa, capito? È già gente selezionata, pagata magari appunto per farci un po' pigliare in giro. Volariamente volevo chiedere a Franco, ma che sindaco avete voi a Sorcio? Nata così, non voglio niente. No, perché il quinto pettine è stato orribilmente deturpato, tutti i parcheggi che c'erano spariti, ci saranno 4-5 macchine ormai in quella rotatoria. Hanno fatto questa specie di stazzi per le pecore fatti con le canne, tanti piccoli riquadri fatti con le canne, ma non ci puoi nemmeno accedere. Poi questo pontile che va a destra, a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, ha fatto questo pontile anziché dritto e tutto a ghirigori. Insomma, posto macchina, quinto pettine non ce n'è più, al quarto pettine pare abbiano fatto uno scempio del genere, non c'è più la rotatoria, quello che era per arrivare al mare con la macchina. Adesso hanno rovinato anche tra il villaggio grigio e il villaggio rosso, credo si chiami così, hanno chiuso lo stesso la rotatoria al traffico. per farlo pedonale. Ma non lo sa che la gente d'estate, questo sindaco non lo sa che la gente d'estate vuole parcheggi, non che vuol passeggiare sul pedonale là. Vai di là lì, vai di là lì, è lo che vuoi fare. Alla fine al mare non bisogna più, bisogna andare altrove, a posto di andare a sotto, perché bisogna fare un giro, di lasciare le due per le spiagge. E vabbè, ciao Natalino, buonasera. Ciao Franco, ben entrato, buonasera, là. Ui ui. Adesso mi accendo la... Eia. E poi comunque già dove c'era il delfino, cioè tu da Platamona vai a destra, no? C'è una, proprio un gomito, arrivi in fondo, poi c'è un gomito, c'è una specie di ristorante, lì era tutto parcheggi, no? Hanno fatto il vialetto pedonale, tutti i parcheggi che c'erano in quel punto eri proprio fronte a mare, parcheggi pedonali, lì non lo so di chi sia la responsabilità. Cioè la gente va in estate a passeggiare lì, non lo so, non riesco a capire. Poi dove c'era il delfino, proseguendo dopo il Lido Iride, attaccato al Lido Iride quasi, no, poco più in là, c'erano quei due bar, o un bar, non mi ricordo, pare si chiama il delfino, anche lì prima le macchine si mettevano vicino al bar, quasi davanti, adesso tutto marciapiede, tutto passeggiabile. Non ho parole, guarda. Sai cos'è? Che lì ha una costruzione rovinata. Infatti ho visto anche un giorno, sono passato, c'è una parente che non ho passato lì. Poi nessuno l'hanno spostato anche, non è più in Rovera, l'hanno spostato più all'interno un po'. Guarda, non ci ho badato, fatto sta che tutte queste piazzette pedonali, ma la gente va a passeggiare in estate, l'hanno già preso, secondo me sta impazzendo il sindaco o la giunta, o tutte e due, boh. Non lo so, guarda, sono come hanno, sono apparito che non passo lì, e non ci so neanche dire niente, quasi, Ok. Lasciali fare Marco, se lo fanno peggio questi politici, fa caridai. E non è solo il sindaco, casomai è tutta la giunta comunale che ha deciso di fare certi lavori, ma se sa, lo sappiamo, no, che funziona così. E visto invece a Trentino che cosa vogliono fare? Caspita, vogliono eliminare le strade per fare la spiaggia, perché è diventata talmente piccola che non ci sta più nessuno. Accetterebbero solo 1200 persone, mentre invece dice ci sono momenti che ce ne sono anche 7000 di spiaggia e c'è l'80% della spiaggia coperta, secondo il calcolo di un ingegnere, coperta da asciugamani, l'80% della sabbia coperta da asciugamani, ti puoi immaginare, uno è a fianco all'altro ad un tiro di respiro l'uno dall'altro, Marco. E che siano degli ingegneri come te che ti dicono che non ti travagliavo io, che non comprendia un tubo, parlando in termini idraulici. Tu sei convinto che il tecnico ne capisce qualcosa? Il tecnico è bravo solo alla scrivania, è bravo. Quando si alza dalla sedia che è seduto alla scrivania, boh, non comprende più l'accidente. Ma parlo di tutti i mestieri, non solamente di questa, parlo di tutti i mestieri. Quando si alza da una scrivania è che succede il danno. Appunto, è quello che ti sto dicendo. Per carità, fanno il disegno, fanno i programmi, fanno questo, poi i programmi, quando li fanno, quando sono fatti in comune, la giunta comunale, in base un poco di casino. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, non si mettono mai d'accordo, non si mettono, per carità. Tu basta vedere cosa hanno fatto a Sassari, come l'hanno rovinata con questo fatto delle biciclette. Io ancora non ho visto una sola persona, da quando c'è la pista ciclabile, non ho visto, e ci sono anche delle biciclette da noleggiare, non ho visto una sola persona, o Natalì, che abbiano preso la bicicletta a noleggio per percorrere la pista ciclabile. Non ne ho vista ancora una, poi non so se ne avete visto, e sono passati mesi ormai. Vai Natali, passa poi il microfono a Franco. Infatti, quella di Armando Diaz, dove sono andato a fare quelle visite oggi, l'hanno rovinata, hanno tolto tutti i parcheggi, hanno messo la pista ciclabile al posto dei parcheggi, infatti io già faccio posto un'ora a fare un parcheggio, meno male già sono andato prima, se no anche la visita avrei perso, ma dimmi tu, e dopo cazzo, l'ho messa lontano da lì e me l'ho dovuta fare a piedi. E quel cordolo di cemento che hanno fatto in mezzo strada, in via Diaz, per dividere le bici dalle macchine. Ehi, e hanno tolto tutti i parcheggi che c'erano prima, perché le macchine erano tutte posteggiate via prima di fette, prima di esserci quella pista ciclabile. L'hanno completamente rovinata quella via. Parcheggi non ne trovi, manco se ti ammazzi. Ti sto dicendo, l'ho trovato per pura fortuna che un SUV se ne stava uscendo e me l'ho dovuta fare a piedi fino all'ambulatorio dove dovevo fare quelle visite. Oh yeah. Non ci vado più, in gran vado la prossima volta. E perché via l'Italia? Dall'inizio fino alla fine tutti i parcheggi che c'erano in via l'Italia, tutti spariti, hanno messo la pista ciclabile, io l'avrei fucilato questo sindaco. Capito? Per far passare un pirla in bici una volta ogni tanto. Ed è ve lo dico io, quando andavamo al policlinico per analisi e altro, no? Oppure la Coin, oppure quel bar che c'è lì davanti al policlinico. In macchina è possibile trovare posto, perché anche se vai nelle vie traverse, sono sempre pieni i parcheggi delle vie traverse, perché i negozianti che prima parcheggiavano in via l'Italia, adesso parcheggiano giù nelle vie traverse, via Moroni, nulla, è impossibile, bisogna andare in tram in via l'Italia, se no non trovi posto, proprio non... Una volta sono stato 20 minuti girando, non ce n'era nessuno giù, una cosa folle. L'avrei questo sindaco, poi deve fare in prepotenza le cose, dice è indispensabile. Ma cosa è indispensabile? I parcheggi servono, vai Franco. Capo, lui, allora il tuo sindaco di Corso è così, no? Gli Zaccari e tutti lì, secondo me sono tutti nella stessa parte, sono quelli lì, a rovinare la città e basta. No, quei lavori lo sai cosa lo fanno? Per interesse, perché loro stiamo un tante da cui si nipicano chi su cavanta da i travagli, si ruinfattini essi. Dopo nessuno si vuol prendere le responsabilità, non si mettono mai d'accordo perché nessuno si vuol prendere la responsabilità di niente. Io lo so come funziona lì perché ci ho lavorato e guarda è una cosa che fa schifo. Ma loro dicono che è stato un ordine della comunità europea, cioè da Bruxelles, è arrivato questo ordine che bisognava fare queste cose, hanno finanziato da Bruxelles, però io dico questo, ma quando mai capita che la politica italiana si deve lasciare infinocchiare dalla politica di Bruxelles, perché devi fare per forza quello che dicono loro. Ma allora siamo veramente degli stupidi e degli imbecilli secondo me, perché non è possibile che possa funzionare così. Siamo noi gli italiani, dobbiamo decidere noi per noi stessi, non devono essere loro a decidere per gli italiani, è una vergogna. Ma non è tanto il discorso parcheggio Marco o Natalino di Via l'Italia, perché quello vabbè, è un danno, è un sacrilegio addirittura secondo me. Il sacrilegio più grande però è quello che hanno rovinato tutto il mondo del commercio, perché non essendoci parcheggi, tutti quelli stanno facendo la fame, tutti i negozi, ma non solo di Via l'Italia, ma di tutte le strade dove ci sono queste interruzioni per questa pista ciclabile. Il problema è quello, Marco. Le attività le hanno tutte ammazzate, le hanno. Cosa? Se uno può andare anche lui, deve andare a prendere niente. Compreso, le attività le hanno tutte. Il giorno che succede vicino al pronto soccorso per colpa della pista ciclabile, il morto, allora ne parliamo. Perché lì è anche pericoloso, Per carità, guarda, non è possibile, ma io l'ho detto dal primo momento. quando hanno incominciato a togliere i pullman dal domicilio Garibaldi, che era una piazza frequentatissima da persone che arrivavano da tutti i paesi limitrofi di Sassari e anche oltre il limitrofo. Erano tutte persone che venivano a portare i soldi qui a Sassari, perché compravano, oltre al fatto che c'erano le bancarelle nei viaggi, nei cicolebadi, eccetera. Poi si è aggiunto Piazza Tola, hanno rovinato anche Piazza Tola quando hanno fatto i sottoservizi lì e la piazza l'hanno rifatta. Per cui, poi non parliamo delle licenze che hanno dato questi massimi licenze a vendere tutto, ma quando mai, capita, uno deve dare queste licenze che vende, capita, dalla prima goccia del sangue sino a quella dell'ultima che gli rimane alla persona. Non è possibile che si possano dare certe licenze, perché quelle sono delle multinazionali e giustamente comprano degli stock di merce grandissime e in quel caso lì ammazzano i piccolini, tutti i commercianti, tutti gli artigiani, tutti e stanno rovinando anche tutti i mestieri, perché non essendoci più gli artigiani, i mestieri chi è che li insegna? Chi insegna i mestieri sono gli artigiani. Purtroppo questo mondo della politica sono degli grandissimi incompetenti, non c'è niente da fare, bisogna rassegnarci. E infatti è così, non dovremmo andare mai più a votare, però è un diritto, è un obbligo civico e bisogna andare a votare, ma a mettere questi magnacci lì a continuare a rovinare. Vai Franco. Se ne stanno togliendo gli occhi tutti questi dei partiti l'uno con l'altro, con i forconi se ne stanno togliendo gli occhi, offendendosi eccetera, minacciando denunce l'uno con l'altro, ma quando mai, capito? La politica deve essere così, è una politica sporca, non c'è niente da fare, e chi ne fa chi ne subisce le conseguenze sono il popolo, tutti i cittadini indistintamente, ma non gliene frega niente, loro si hanno fatto la poltrona e ce la stanno facendo sempre più comoda, ecco a cosa interessa a loro, tutto lì. Vai Marco. Via. Sai cos'è? Loro vogliono fare come le grandi città, adesso ritornando a queste opere, aree pedonali, aree ciclabili, capito? Piste ciclabili, non... A Sassari sono controproducenti, chi vuole andare in bici se ne vada un po' fuori città, piano, sul bordo destro, e vabbè, dove ti dica, ogni sindaco che fa il cavolo che vuole, capito? Anche se è controproducente, poi il sindaco non paga i danni che fa, capito? Se chiude un'azienda in Viale Italia, non solo, il sindaco se ne frega, non è non viene toccato, almeno così credo io. Va bene, dai che vado alla TV, dai, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao Marco, dai, ci sentiamo alle prossime, avanti. Ok, ciao Marco. Salutami Volulis, anche quel papone. Va bene, se quei soldi che sprecano così in questo modo l'avessero dedicati alla costruzione di case, intanto avrebbero creato lavoro, soprattutto con i poveri terremotati, poveracci ragazzi, che stanno vivendo dentro le cabine di legno, stanno vivendo, che è una cosa impressionante, come si fa a continuare a vivere così? Anziché dargli una mano, cercare di ricostruire in fretta e furia, no, buttano i soldi così, facendo queste stronzate, tipo piste ciclabili e balle varie, fanno considerare poi tutte le buche che ci sono nella città, ci sono poco di buche, sprofondamenti in tutte le parti d'Italia, dappertutto, anche a Roma un paio di giorni fa c'è stata una strada che ha sprofondato. Ma dico io, ma dove sono la manutenzione di queste strade, di tutte le città, dove sono? Povera Italia, che siamo in mano a questa gente. Vai Franco. Ma se tu pensi che a Roma ci sono il centro storico di Roma e tutto quanto la linea sotto, è ovvio che si affonda, se non imparano la questione come si vede. È ovvio che i tempi di prima di fare le strade c'erano le gallerie, c'erano le corse carrane, c'erano anche. Ma è come sono i fatti tutti. Manutenzione fanno, è ovvio che qui con quel tempo lì profonda e si scendono giù, si scendono, quindi andate in un posto, ma che è un giro lì, nel bosco, e purtroppo loro fanno i lavori, si prendono per dire 3 miliardi per fare un lavoro, uno lo spendono e due si mettono in casa. Ma c'è una vergogna, strade che sprofondano, ponti che cadono, che crollano, ma dico io, ma cose accettabili sono queste? Non sono cose accettabili, il popolo, stanno portando il popolo alla disperazione, e io mi auguro che prima o poi il popolo non si risulti, perché se di volta il popolo sono dovuti veramente, speriamo che non succeda mai una cosa del genere, perché non è possibile che si possa continuare in questo passo, per non parlare poi di questi extracomunitari che sono arrivati, mi oggi hanno fatto una carovana di queste persone, tutte uno dietro l'altro, hanno fatto una fila lunga diversi metri, diversi centinaia di metri, andare in comune a protestare perché dove vivono, dove li hanno messi, dice che stanno male, dice che dormono uno sull'altro, ma che ne rende conto? Ma non è possibile, dai, la politica non è in grado di amministrare, non sono capaci, non hanno le capacità per poter amministrare i popoli nella maniera più assoluta, purtroppo è così. Oggi basta che tu conosci una persona, vai e gli chiedi il voto, e quello perché è amico, perché è conoscente, eccetera, e ti dà il voto, e mettono delle persone a comandare incompetenti, gente che non sa capire niente, che non ha mai capito niente e non capirà mai niente di amministrazioni. Vai Natalì. Anni pigliato la padrona anche a di tutto, noi non comandiamo più nulla, non è compreso, perché il popolo non è più sovrano, non ha più la sovranità monetaria, ce ne hanno preso tutto e si soffende a beffa e sempre si guarda, a noi ci cancellano dalla cartina geografica perché saranno tutti neri, quindi non ne stiamo facendo, quindi siamo destinati a sparire. La Sardegna in modo particolare, non è possibile ragazzi, e non a caso si stanno vendendo adesso le case anche nei paesi, addirittura stanno venendo dall'America a comprare le case a un euro nei paesi, tutto questo perché succede? Perché hanno fatto scappare la gioventù, hanno fatto scappare i giovani dai paesi, perché non hanno mai pensato a creare un lavoro, perché non hanno mai pensato a migliorare la vita della Sardegna soprattutto, ma non è possibile che debbano succedere queste cose. Ci stanno invadendo tutti, adesso vengono dall'Olanda, dall'America a comprare le case a un euro l'una, ma te ne rendi conto? Una vergogna, comprare la nostra cultura e soprattutto i nostri beni, i beni artistici eccetera in mano a questa gente che noi non abbiamo mai visto e mai conosciuto. Boh, non lo so io, vai tra. Loro decidono, loro fanno, perché guarda io quando ho sentito che quello là ha cominciato a sparare ai muri, non è tanto per sparare ai muri, però diciamo che io, avendo quel coraggio di prendere un'arma in mano e cominciare a sparare veramente, avrei sparato ai politici, avrei sparato, cercato di ammazzare i politici. Quelle sono cose che non devono mai succedere. purtroppo la gente a volte impazzisce, perché tu pensa un po', adesso questo pazzo, anche questo sardo, parlo anche per lui, perché anche quello l'avevi visto, era un delinquente che aveva già sparato la persona ad Alghero, poi se n'è andato pure. Ma dico io, se uno ha sparato, come spiegami per quale motivo è in circolazione? Cosa stai aspettando? Che ammazzi un altro po' di persone? Ma non è possibile, quello era già condannato ed era in libertà vigilata a Pisa. No, ma dico io, e questo è di Alghero. E se è andato in giro, visto cosa ha fatto, ne ha sparato giù così, all'impazzata. Non è possibile, dai, queste cose non si possono nemmeno sentire. Se questo era già un pregiudicato, che è stato arrestato proprio per quel motivo lì, perché usava la pistola, e tu me lo lasci in circolazione, un elemento così pericoloso. Ma allora siete proprio cretini del tutto, non è possibile che si possa accettare una cosa del genere, Franco. Vado a guardare cosa è successo, guarda adesso, non è perché voglio fare le pretese di Corona, questa proposta che hai fatto è sempre dentro, quando ha fatto una strage, ha ammazzato, ha fatto a pezzi, ha messo una valigia, e lo stanno togliendo fuori. Sì, prima o poi lo buttavo fuori, senz'altro, adesso li fanno fare un po' di carcere, qualche annetto, così 1 o 2 anni, e poi lo buttavo fuori. Quello ha bisogno dell'ergastolo, o addirittura ha bisogno di essere decapitato anche lui, perché non è possibile che uno possa essere così malvagio, o quelli, perché non è solo, sicuramente ci sono anche altre persone, quelli tutti presi, e bisognerebbe fare lo stesso trattamento a loro, ma purtroppo qua non si può fare una cosa del genere. Qui noi abbiamo il Santo Padre che non accetta certe cose, per carità, è giusto che non sia accettata la violenza, ci mancherebbe altro, però per dirti, probabilmente in un altro paese l'avrebbero fatto già fuori. Io scommetto, se quello non avesse fatto in Germania, sarebbe stato già fatto a pezzi anche lui o fra. Sì. Certamente sarebbe stato fatto a pezzi anche lui. E non solo in Germania, ma diciamo che anche se vai da loro là, penso che se lo fanno a pezzi, anche se vai da loro, al paese tuo lo stesso, lo faranno a pezzi. Solo in Italia non ci sono leggi, perché chi ruba per mangiare non esce più di galera, chi ammazza e ruba grossa, su di tutto, non succede niente, quello lì fa bene, quello lì si fa 4-5 mesi di galera, mi hanno indicinare, quindi ciao e arrivederci. Sì, qui più fai il delinquente, più è grave la situazione che hai fatto e più ti premiano, perché non è possibile, ragazzi, hai ragione, come stavi dicendo tu, Corona, ragazzi, perché non ha ammazzato nessuno, che ha estirpato soldi a manca e a destra, questo è d'accordo, e anche lui le sue cose già le ha fatte, però le hanno dato 15 anni o una cosa del genere, non è possibile, dai. E queste persone, ragazzi, che ammazzano e poi li mettono a piede libero dopo poco tempo, cose incredibili, cose dell'altro mondo, ragazzi, non si possono accettare. Io come persona italiana non lo posso accettare certe decisioni che fanno, che prendono, no, nella maniera più assoluta. Non è possibile. Vabbè, ad esempio lo vediamo anche in Parlamento, quando sono in riunione e tutti si azzuffano. E questo cosa significa? Educazione. Questo è l'esempio contro per incentivare la delinquenza, secondo me. E dunque io lo penso così. Avanti, Nathalie. E infatti le leggi già sono in favore al Big Bang. Per carità, capita, non si può accettare una cosa del genere. Stanno distruggendo tutto, si hanno mangiato l'Italia, adesso si stanno mangiando anche gli italiani, fra un po' diventeremo passo di loro anche lui, vai fra. Alla fine è così, è davvero brutto davvero, penso c'è l'Africa qua, c'è l'Africa, c'è la Cina, c'è tutti qui. Ho preso due telefoni da tutto, le stanno comandando qua. Non è che dicono no, perché noi i nostri figli li mandiamo nelle nostre scuole, facciamo le scuole a parte, come ci hanno fatto le moschee, come ci hanno fatto le altre cose. E invece no, le mandano nella tua scuola e comandano anche. Comandano. Ma la roba a fatti. E poi c'è un'altra, anche un'altra cosa. Ma mi fanno circolare con... noi possiamo, per dire, entrare con un casco dentro un coso perché ci siamo nella faccia coperta. Questi circolano col velo e non si fanno vedere, non vedo solo gli occhi. E questi, questo è molto con tutti i soldi, non sono questa gente. Ma una cosa, e l'Italia non lo permette. Allora sai cos'è? Che le leggi già ci sono e che non le applicano. Per esempio le moschee non ne deve esistere neanche una in Italia, perché c'è una legge che dice che le moschee sono incompatibili con la nostra costituzione e la nostra religione. C'è proprio la legge che sono abusive. Loro le devono chiudere le moschee. Ecco cos'è. Devono applicare la legge. La legge c'è, perché non le chiudono? Sono abusive. Sì, sono abusive. Però quella roba lì, non te ne sei accorto, perché è così. Arrivano i peggiori delinquenti a quelli che fanno i massacri e sono dentro le moschee, sono lì, quella gente lì. E loro si credono che vengono da fuori, non è vero, sono già lì, sono già in Italia. Io non capisco come possano, io parlo sempre della politica, come possano permettere la politica di sovvertire la nostra religione, la nostra cultura, premesso che io non sono tanto religioso, anzi per niente religioso, però è una cosa assurda che tu vieni qua a sovvertire le nostre abitudini, il nostro tipo di vita, ma non è possibile, le nostre religioni. Ma dico io, ma siamo impazziti o siamo imbecilli? Io dico che siamo imbecilli, io parlo in generale naturalmente, nei confronti di chi lo permette questo, perché non è possibile che tu vieni qua e a me mi dici togli il crocifisso dalle aule della scuola o qualunque tipo di immagine dalla chiesa, dalle scuole, da qualsiasi posto. Ma vuoi scherzare? E tu vieni qua a casa mia a comandare. La nostra religione è quella, per chi ci crede, tu non lo puoi tradire, non puoi tradire i nostri fedeli, le nostre persone che credono nella nostra religione, non li puoi tradire, perché loro hanno la loro religione, che se non vogliono vederlo, il crocifisso, che se ne rimangono a casa sua. Per quale motivo? Noi non abbiamo chiamati noi queste persone, anzi no, mi correggo, li stiamo chiamando noi, perché la politica vuole che questi vengano sempre qua ad importunarci, a rovinare le nostre città, a portarci malattie, a portarci delinquenza, a portarci prostituzione, a portare di tutto e di più. Vai Franco. Sì, è vero giusto, è vero così. Poi anche gli danno, cioè loro chiedono, quello che chiedono glielo danno, lo chiedono in italiano e non gli danno niente, gli fanno venire tutti i punti, gli fanno venire gli sparano in Italia italiana, questi gli danno tutto, perché questa gente che viene qua non sa quando avere di fame, perché non ne hanno fame. Perché sono dei vestiti e che hanno dei vestiti che questa gente italiana non si può permettere, che hanno cellulare da 900 mila euro, che hanno cose che non intendo io, perché non mi interessa quello della città lì. Però quando vedi una cosa del genere e poi mi vengono a dire che questi là stavano morendo di fame, non di dire, ma non ho visto. Siete razzisti. Vai zitto tu, ciao Fabrizio. Ho detto che questi qui vogliono buttarti a mare perché sono loro ospiti e devono stare alle nostre leggi. Invece loro si considerano padroni e i politici nostri li appoggiano perché ci guadagnano. Allora sai cos'è la morale? I soldi. al politico gli interessano solo i soldi, di te non mi racconti nulla. Avanti Fabio, buonasera, ben stato. Papa, buonasera, ciao Franco, poi ciao Giulio, ciao Natalino. Siete razzisti, capito? Voi siete razzisti. Questa gente è giusto che venga qua, che hanno bisogno, gente che sta a fare la fame, capito? Ed è giusto che il canale gli aiuti questa gente. Se tu c'è un famiglia, devi tagliarlo in due e dare una parte a loro, capito mi hai, Natalino? Così muore o è moribruendo di fame? Ciao Fabrini, no, non abbiamo delle risorse, non è questione di essere razzisti o Fabrini, il discorso è che qua ci vuole un po' di regole, ci vogliono, ecco qual è il discorso, noi non abbiamo delle risorse finanziarie, tantomeno non abbiamo nemmeno la capacità, io parlo sempre a nome della politica, non abbiamo la capacità per poter amministrare certe situazioni, perché non è possibile, se questi li fai venire qua, li devi trattare innanzitutto in maniera civile, non li puoi tu buttare così e ammassarli in un locale, in un magazzino, un capannone o dove vuoi tu, a coricarsi l'uno sull'altro, come appunto stavano protestando oggi, che hanno fatto il carosello verso il comune a protestare per il sindaco. Tu, se queste persone li fai venire, li devi trattare in maniera umana, non con peggio degli animali, non è possibile, Fabri, ecco cosa intendo io. Ma io ho capito, l'italiano può aiutare questa gente, tu adesso no, sicuramente tu c'hai una casa grande per la tua famiglia, se tu c'hai una o due stanze in più, vai in comune e dici io ho due stanze in più, voglio aiutare questa gente, e ti porti a casa una famiglia, capito, per un'opera buona. No, non fai assolutamente un'opera buona, nella maniera più assoluta, perché è lo Stato che ci deve pensare, non ci devo pensare io o tu o Natalino e così via, assolutamente no, è lo Stato che si deve pensare, intanto a collocarli in un posto decente dove si vive in maniera civile, non come gli animali buttati per strada, nei campi, in mezzo alla mondezza, in mezzo al freddo, alla neve addirittura in certi posti, anzi in tanti posti, non in certi. Non va bene così, se li vuoi ospitare li devi anche mantenere in maniera come si deve, soprattutto creare lavoro, prima gli italiani e poi subito dopo loro anche, perché è giusto che siano così, che sia così, se no li devi rispedire a casa, perché quelli dicono che sono scappati dalla guerra, sì, ci sono anche quelli che sono scappati dalla guerra, ma un 5% di tutti questi, di queste persone che sono venuti qua, tutti gli altri non sono scappati dalla guerra, sono venuti qua perché sanno che qua li mantengono senza nessuna alternativa a qualsiasi risorsa che possono avere un domani, che ecco qual è il problema. Avanti Franco. Ciao Fabrizio, non sono d'accordo con te, che l'appartamento, la casa me l'ha consumata e non me l'ha fatta lo Stato, non me l'ha fatta, e non sono d'accordo con te per quella legge, perché loro si deve pensare lo Stato, si deve pensare, non io a questa gente qua. Io massimo che posso fare è fare una piccola offerta, ma piccolina però, un italiano può fare il massimo per fare, ma non metterci dentro casa, perché questa gente non sai che si sta mettendo dentro casa, a parte tutto, lo sai. E l'appartamento con uno che ce l'ha fatto, che ci ha assurato 40 anni, 50 anni, ha fatto un appartamento, guarda, lascia perdere, che non è così. E basta che ce lo stanno anche tassando, ce lo stanno, guarda. Ok, io detto questo vi saluto perché devo uscire, mi hanno chiamato, devo uscire un attimino. Ci sentiamo. Ciao Giulio, ciao Fabrizio e ciao ma sempre mi vuoi dire 10, vabbè, Natalino. Ciao Natalino, ci sentiamo con le prossime riprende. Ciao Fra. Allora, questo è quale prossime, grazie per la chiacchierata. Riprendi Giulio. Ok, ciao Fra. Grazie a te per la chiacchierata, dai, alle prossime, ci sentiamo Franco, mi ha fatto il piacere di ascoltarti. Vai Fabrizio. Ehi, a Chiastra. Comunque se cambi idea te la posso mandare, te la mando io una famiglia, capito, te la mando una famiglia, uomo, donna e due signori di 18 anni. No, guarda, io non lo ho a nessuno, e non è che sia vicino, nessuno, perché per aiutare a loro aiuto l'italiano, una persona che conosco, e ne conosco tante, che ne hanno molto, molto bisogno. Ciao a tutti. Sì, vabbè, fra, sai che io sto scherzando su questa cosa qua, già la so come la penso, non so io, sai come la penso io. Io se ci fosse stato mio zio, se ne fosse stato neanche una di questa gente qua, purtroppo non c'è più, infatti la sta lì. Peccato. Brava. Come questo ci vuole. Magari, oggi farebbe, è come la mano di Dio Fabrizio, se ci fosse uno di quelli, magari, oggi ci vuole veramente, guarda. No, ma io dico questo, per ospitare uno extracomunitario, il comune mi sembra che passa 800 euro al mese o qualcosa del genere, no? Un comune o la provincia o chi, insomma, 800 euro al mese. Ma come mai non hanno mai pensato di fare la stessa cosa per un italiano, per ospitare un italiano? Questo non, come mai, Fabri? Non lo so. Tu cosa ne pensi? Io te lo consiglio cosa ne penso. Siccome i tuoi amici di sinistra, del popolo italiano, non frega niente, è tutto giù di soldi, 5 miliardi all'anno, sono un sacco di soldi, e poi entrano e loro ne spendono 800 milioni per gli italiani, però ne spendono 5 miliardi per questa gente, capito? Il problema è quello lì, tu pensa che le cose di questo di Cagliari ha fatto un bando per 8.000 posti letto, capito? Stanno cercando 8.000 posti letto e eventualmente ci siano gli sbarchi. Quindi come hai detto tu, cosa fai se italiano? Perché non fai questa politica per i poveri italiani che vivono dentro il carcere o dentro le macchine? Però se c'è la sinistra non cambierà niente, capito? Alle prossime elezioni deve vincere chiunque, tranne che la sinistra, capito? Se vince la sinistra continuano a fare questa politica. Io dico di votare a Giorgia Meloni, che sarebbe il male minore, neanche Salvini, perché quello è razzista. A Giorgia Meloni, e da qui se ne va a rimanere il male. Grazie, dai, mi hanno chiamato, devo scendere giù urgentemente. Ci sentiamo, dai, ciao Fabri, mi dispiace non potermi trattenere ancora, perché la discussione è anche interessante. Ciao Natalino, alle prossime, dai, riprendi Fabri, devo scendere giù, che mi ha chiamato urgentemente la famiglia, dai. No, deve scendere, deve essere magari dietro, fa cenare. Vabbè, ciao Giulio, grazie della chiacchierata, alle prossime, riprendi Fabri. Sì, ciao Giulio, alle prossime. Capito, caro Natalino, ma guarda che c'è la Meloni, Salvini, Berlusconi, la stessa cosa, sono insieme, capito? Non è questo il razzismo è una scazzata inventata dalla sinistra, perché tu come tu parli male di uno straniero, sei razzista, capito? Quindi la sinistra non deve, io sono convinto che non vincerà, capito? Sperando che gli italiani siano così coglioni da portare questa gente, devi cominciare a proteggere la tua nazione, se no come tu, alla fine comandano loro. Però sono convinto che non vincerà la sinistra, e io mi auguro che viva chiunque, tranne la sinistra, perché se la sinistra non vince più, allora vedrai come diciamo, un pochettino a portare un pochettino un po' di rigidità in questa nazione vomitevole. Vabbè, a Parigi. È così, questo che io mi auguro che la sinistra non vinca, sicuramente non vincerà, perché se vince, se gli fanno così coglioni e danno tanti voti alla sinistra, allora continuano sempre la stessa politica, capisci? Sempre, la stessa politica è sempre peggio. E quindi è arrivata l'ora di proteggere la nazione e veramente aiutare gli italiani, capisci? Basta, finisce, altrimenti. fosse oltre che l'Europa non mi aspetta neanche di aiutare l'Italia, solo per quello. Sì, ma io stavo dicendo, grazie a di pensare della Repubblica a quella persona lì che ho detto, perché tanto se no, se non si mettono d'accordo è un casotto, invece è meglio che ci abbia i voti quella là. Oppure come hai detto tu, il sapere da più voti di come la danno ai sondaggi, capito? Però è così, basta, non è tanto all'amico tuo, ho detto, all'amico tuo, quello che sta lì a farlo educare, l'ho detto io un giorno, capito, c'era una manifestazione, lui era con un amico di famiglia, mi sono avvicinato, mi sono detto cosa, no? Gli ho detto, voi della sinistra avete rovinato questa città di Sassari, l'avete fatta diventare un vomitevo, perché il Sassari vecchio non si può più entrare, tutti i negri, cinesi, neri, poi Bangladesh, cazzo, gli ho pochi, adesso in basso abito c'è lo storico, gli ho detto, ci sarebbe adesso Benito Mussolini, a voi vi avete messo al muro. Però avvicinate la microfono perché ti sento bassi di radio. Sì, già lo so, se non avvicino il microfono, no, è troppo e fa questo che lo lontano poco a poco. Adesso ti ascolto. Capito, l'amico tuo glielo ho detto un giorno a quel signore che comanda la città, glielo ho detto, se si alza Mussolini vi fa cosa a tutti quanti, per come avete ridicolizzato questa nazione. Quello è il tirapiedi di quello che sta più. Non ho capito che sto dicendo. Sì. Capito, lì su, quando ci c'è il telefono, c'è già sta bene, capito, il tuo sindaco. La cosa mi ha detto, ah, da come sta là, lei allora non mi ha portato, già, io non ho guardato mai a nessuno, sia ai regionali, sia a cazzo per il sindaco di Sassari, io non ho mai portato nessuno, perché io forse lo so, forse era uno come Benito Mussolini, un po' perfezionato però, non come lui, un po' perfezionato, capito? Ecco? Chi è? Buonasera Daniele. Ciao Daniele, buonasera. Avanti Natale. Ciao Daniele. Uè Natale, salutoni a tutti E magari voi siete ascoltati. Senti Daniele. Cava. E allora, datevi notizie su questo apparecchio come sta uscendo. Allora, guardi di bene lei, con la Budi, Santiago 7, Radio 5, perfetta. Va bene. E a te Natale, come ti arrivo di radio? Veramente bene. Meglio così. Ma tu non puoi aumentare la tua un pochino, no? Non posso fare il radio. Ah, va bene allora, come non detto. E 15, che si dice? Che si dice, se tutto va bene siamo arruinati. Metti sempre. Non è così la palì. Ma se tutto va bene però siamo rovinati. Allora, si stava bene o si stava peggio. A te un attimo. Va bene. Ciao Daniele. Ciao con te. Come stai? Bene, e voi? Anzi, e tu, Natalia, lo sarà sentito. Io ero un compleanno. A mangiare dolci, ieri no? Ma ci sono abbastanza in questo momento. Quanto 90? Sono abbastanza. Beata lei. Oh, signor, va bene, riprendiamo, riprendi Fabrizio. Ehi. Purtroppo caro Natale, è così, è un casino, capito? I tuoi amici di sinistra hanno fatto un casino in questi 5 anni. Veramente sono amici di Ruboia? Magari forse amici di Ruboia, gli avevano tagliato la testa. Ma noi, tutto bene, sono aumentato da Massimo Baribari, speriamo che non le succeda mai, però siamo sul punto della guerra civile. E allora? Ho fatto questa legge per far sì che ci sia la casino, però vincerà, perché se vince la fitta, allora gli italiani sono coglioni, per cui devono capire, continuare a essere sudditi dell'Europa. Chi è stato alla banca, adesso mi ricordo chi era stato, alla Banca d'Italia di fabbricare sul. Dimmi tu, cazzo, dobbiamo comparare di là dall'altro, maggio compreso, Anche la sovranità popolare, cioè monetaria ci hanno preso, oltre che la sovranità del popolo, no? Il popolo non è più sovrano, che hanno venduto tutto all'Europa, noi siamo schiavi dell'Europa. Allora, ma hanno fatto bene gli inglesi che sono andati, capito? Questo è normale, tu quando sei sudito di altri, al 99% si è arruinato, perché non gli estranei hanno diritti, a meno che non entri un governo o di destra o i 5 Stelle, qualsiasi tranne che la sinistra, perché la sinistra è contro il popolo italiano e questo lo stiamo dimostrando, contro i lavoratori, contro il bene dell'Italia, contro le imprese, contro l'agricoltura, contro tutto. Deve salire gente che veramente ha le spalle, altrimenti la sinistra farà sempre quello che stiamo facendo. Quello è poco ma sicuro, perché nell'ideologia della sinistra c'è che tu non devi possedere mai nulla, hai capito? Tutto dello Stato deve essere. E poi il discorso della Gran Bretagna è un altro discorso, perché loro sono sudditi solo della regina e in più avevano, oltre la sterlina, ce l'avevano loro, però sempre la sterlina avevano. Se ne sono potuto andare a paghizzo, cosa si riporta, ne ero capato in vigna alla Gran Bretagna. E poi lo sai cos'è il problema? Cazzo, in Europa ci sono, mi sembra, 4-5 nazioni che non c'hanno l'euro, tipo la Polonia. La Polonia c'ha sempre la sua moneta, lo zloty. E quindi sono stati più furbi di tutti quanti, perché l'hanno messo in Costituzione la moneta. Quindi se domani l'Europa dice noi dovete usare l'euro, quindi con noi dobbiamo fare un referendum per cambiare la Costituzione. Ai sondaggi attuali il 95% dei polacchi non vogliono quella moneta, quindi li hanno fottuti, ecco perché vanno meglio di noi. E infatti non hanno subito la crisi che abbiamo subito noi, perché noi non possiamo fabbricare soldi, se no avremmo avuto i soldi per coprire i debiti, hai capito? Siamo soldi, all'Europa gliela mettiamo in gomma di vostra mano. Allora potevi svalutare la moneta, potevi fare, ecco perché la Cina, l'America hanno le loro monete e quindi possono fare quello che vogliono. Guarda la Cina che ha schiacciato qua e prende e fa soldi e li mette in giro a far travagliare, capito? E tu lo puoi più fare, avanti da me. Avete chiamato? Ehi, riprendi, aiuto. Ehi, no, guarda un po' adesso com'è. Adesso la modulazione è un po' più alta e va benissimo. L'elicottero come sta girando? Ehi, la sta girando bene, fai il giro più veloce, se no li guarda. Se vuoi posso allentarlo, Guarda un po'. Eia. Guarda che siete in elicottero. Attenzione, Daniele, gli assoluti. Cambio. Va bene. Aspetta che lo stacco adesso. Tu vieni a tutti, Natalino, com'è il mio elicottero? Aspetta l'attacco. Attenzione, Natalino. Come gli assoluti. Attacco, beh. Benito. Mussolini. Cava, guarda adesso com'è, 1, 2, 3, 4 e 5. Tutto, sì, andiamo in Europa, avevo casino, infatti si è fermato tutto quello che ti hanno fatto fermare. Ragazzi, sì, geni, puffato. Vi siete tutti sovraccavallati, tu e Daniele. Dai, riprendo io, guarda adesso com'è. Già va bene, senza elicottero, già va bene, ti ascolto bene, benissimo. La calusia, no, la calusia. Eia, anda bene meno. Dai, signori, io però devo andare a preparare qualcosa qui per stanotte. Ci sentiamo alle prossime. Grazie per la chiacchierata. Ehi, alla parea, com'è la mia modulazione, il mio segnale? Il segnale non te ne posso dare, c'è quel Goddard 4008 che ha le led. Ah, sì, quel giocattolo, c'è anche io quello lì. E vabbè, la modulazione. Ah, la modulazione ultima, va. Bene, vega, stammi bene, Natali, stammi bene. Ci sentiamo alle tussi, e non avere dubbi a chi votare. KK, vabbè, ciao a tutti e due, va. Ciao Natale, saluta in casa e ci ascoltiamo le prossime se coincide. Gava, gava, anda bene veda. Ti chiedo a te, io... Io sono zona Via d'Italia Alta, vicino all'uscita, dai. E allora, vai benissimo. Io vado a parte la città, come ho detto, zona Butibuti, alle ciglia della Croce. E quindi siamo a faccia, uno di fronte all'altro, perché l'antenna è rivolta da quella parte. Eia, eia. Bene, bene, poi io e lì tra poco ci andiamo a mangiare, sono le 8:15 e andiamo a qui il bigio per la banca. Io lo stesso, anche qua è quasi pronto. E va bene, va bene. Cavolo, non mi ricordo più come erano le regolazioni di questa radio. No, ma già va bene. Non emette le cose, ho capito. L'altro è normale che va benissimo. L'hai metto quando ce l'ho in macchina, Capito, fa andare al 45. E quindi si attiva tutto. Guarda un po', aspetta, se giro questo la succede. Ora, ora, ora la cipolla. Allora bene, ragazzi, 5 è stata perfetta. Eia, la lascio così, dai. Sono le sue impostazioni queste. Va bene, va bene. Già 3 anni che non stavo entrando in radio io, che croce. Meglio ogni tanto accende, l'ho capito. Bisogna farlo scaldare. Già lo so. Ma in macchina, tragitti brevi, già poco tempo. Allora, bisogna farlo scaldare. Io quando lo farò scaldare accendo il forno. Io lo metto nel microonde 10 minuti e faccio prima. Capito. Vabbè, sei in ufficio e vado a preparare. Stammi bene, mi ha fatto piacere ascoltarti, ci sentiamo a fare tuzio. Eia dai, contraccambio tutto al 100, anche a me. Va bene, dai, ci ascoltiamo le prossime cordialità, una stretta di mano. Se ci siete domani sera magari facciamo una chiacchierata. Eia, ciao Daniele, le tuzio. Eia, ciao ciao.